Ciao, io sono Laura Voltolina e la newsletter di oggi è Un anno, un mese e un giorno. Benedire, ma davvero, i lunedì. Lo scorso anno, più o meno in quest'epoca, una delle sempre meravigliose, si è detto, risposte che ho ricevuto a una newsletter, ciao Beatrice, citava un vecchio detto delle nonne: prima di valutare un cambiamento che hai fatto, aspetta un anno, un mese e un giorno. Ho accolto il suggerimento e ho aspettato il 3 settembre per valutare quel mio ultimo cambio di vita in ordine di tempo. Nello specifico il trasferimento ad Ancona senza conoscere nessuno e senza esserci praticamente mai stata prima. Sai che c'è? Mi sono resa conto di quante altre cose sono cambiate dopo quella data. Moltissime. Perché non so se te ne sei accorta o accorto, ma quando modifichiamo qualcosina, e uso il diminutivo perché certe volte quello che stiamo cambiando non ci sembra granché, quasi sempre diventa un potente innesco per altri cambiamenti. In questi giorni sento parlare moltissimo di rientro, dalle ferie, dalla vacanza, a lavoro, a scuola, nel quotidiano che era stato lasciato in sospeso. E non se ne parla quasi mai con autentico entusiasmo, o almeno con curiosità. Molto spesso è tinto di ansia, rassegnazione o tristezza. Come se ci fosse in giro la sensazione che la vita, la nostra vita di ogni giorno, sia una grande, continua, immensa tortura. E in alcuni casi, in alcuni periodi, può davvero esserlo. Ma in tutti gli altri momenti, in tutti gli altri casi, siamo davvero così sicure e sicuri che sia veramente così brutta? Se ci sentiamo sempre costantemente come il giocatore del biliardino nell'immagine in intro, non potremmo magari cambiare qualcosa? Non serve quasi mai un cambiamento epocale, basta meno. Basta fare un percorso diverso quando ci muoviamo, per l'ufficio o per il supermercato, ad esempio. Basta lavarsi i denti usando lo spazzolino nella mano non dominante. Ci hai mai provato? Io lo trovo un esercizio interessantissimo. E il mio igienista dentale non mi trova più abrasioni da spazzolino sulle gengive. Basta imparare ad amare il lunedì. Lo so. Amare il lunedì è un'attitudine impopolare, molto più semplice viverli male, come fa la maggior parte delle persone. Eppure il lunedì è il giorno dedicato alla luna, illumina senza bruciare e sostiene l'intuizione. Il giorno in cui si programma la settimana e settimana per settimana si srotola la vita. Anziché viverlo come una condanna, iniziare il lunedì con il link per l'incontro online di yoga del potere, prendersi il lunedì, già ci aiuta a scrollarci di dosso il senso di subirlo e invece abbracciarlo. Perché abbracciare il lunedì è abbracciare noi stesse, noi stessi. Vuoi venire anche tu a prenderti il lunedì? Scrivimi. Le parole che ho scelto per noi, oggi, sono di Christian Bobin, dal suo Abitare poeticamente il mondo. Parlo di una piccola tribù dispersa, composta non soltanto da persone che scrivono o dipingono, esteti o artisti. Si tratta solo di un modo umano di abitare il mondo. Perché dire abitare poeticamente il mondo o abitare umanamente il mondo, in fondo, è la stessa cosa. Ci vediamo online lunedì? Porta te, con i tuoi dubbi e la tua potenza, con la tua fatica e la tua leggerezza, con la tua rigidità e la tua curiosità, con le tue reazioni e la tua capacità di agire. Porta te e la tua bellissima, complessa, fantastica umanità. Perché che altro ha veramente importanza? Un sorriso grandissimo. Laura.